Perfetto Giorno di Simone Spezia. Il Front National, primo partito, è Francia spaccata in tre dopo le elezioni regionali. La Le Pen al 28%, i popolari al 27%, i socialisti al 23,3%. Test sicurezza per l'Italia, questa sera è la prima della Scala, domani l'apertura del Giubileo, un arresto a Bari per connessioni col terrorismo. Vinceremo contro queste minacce, dice intanto Obama. Il ministro Gentiloni annuncia riunione della coalizione anti-ISIS a Roma a metà gennaio. Dopo il decreto per salvare quattro banche, il governo pensa ad un fondo per tutelare i risparmiatori. Partono le prime azioni penali. È morta a 90 anni Mariuccia Mandelli, in arte Crizia, fondatrice dell'omonima casa di moda. Poco meno di due anni fa aveva venduto ad un gruppo cinese. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Oggi in questa edizione partiamo dalle elezioni in Francia. Si è votato ieri per le regionali e i dati complessivi indicano un rafforzamento netto del Front National di Marine Le Pen. A livello nazionale conquista circa il 28% delle preferenze e pochi decimali aggiuntivi rispetto ai repubblicani, mentre i socialisti si fermano al 23,3%, i verdi al 7%. Abbiamo in diretta con noi il corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, Marco Mussanè. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Primo partito, appunto, il Front National, fatto che in realtà si era già verificato alle europee, quindi ormai una tendenza consolidata. Sì, è una crescita che pare abbastanza inarrestabile e anche motivata da, come dire, cose assolutamente evidenti, cioè c'è una voglia di rivolta da parte della gente nei confronti di una classe politica considerata vecchia, incapace di risolvere i problemi che fino a pochi mesi fa erano soprattutto di carattere economico, una disoccupazione molto alta a livelli record e che poi si è via via trasformata invece in un'emergenza appunto collegata ai temi della sicurezza, dei flussi migratori, del terrorismo islamico, che ha sicuramente contribuito ad alimentare i consensi del fronte nazionale, che comunque è ormai da anni appunto su un trend ascendente molto forte, 11,4 alle regionali del 2010, 18 alle presidenziali del 2012, 25 alle europee del 2014, un po' più di 25 alle provinciali di inizio anno e ora il 28, è un trend ascendente che conferma la capacità di Marine Le Pen ad aver costruito un partito che diventa in qualche modo un partito di adesione ideologica e politica, è un grande partito di raccolta di tutti i malumori, i malesseri, le paure, le rabbie che il paese esprime. Sì, e raccoglie tra l'altro molti consensi tra i giovani. E Marco, adesso si apre la partita dei ballottaggi in Francia con il Partito Socialista che ha intenzione di ritirare una serie di candidati non senza problemi. Sì, per il Partito Socialista è un vero e proprio dramma. Già ieri sera l'ufficio politico del partito, che si è riunito precipitosamente dopo il voto, ha deciso il ritiro delle liste socialiste arrivate in terza posizione nelle tre regioni dove il fronte nazionale è particolarmente forte, cioè nel nord con Marine Le Pen, in Provenza Costa Azzurra con la giovane nipote Marion e in Alsazia-Lorena con il fedelissimo della Le Pen, Florian Philippot. Nei primi due casi, cioè nel nord e in Provenza Costa Azzurra, il capolista socialista ha accettato la decisione del partito. Qualche problema in più c'è nel Grande Est, appunto nella Stazia Lorena, dove il capolista socialista sarebbe intenzionato a resistere. Delle discussioni sono in corso proprio in queste ore. Dico un dramma perché questa decisione finalizzata a favorire il candidato del centrodestra e cercare di bloccare la conquista della regione da parte del Fronte Nazionale ai ballottaggi domenica prossima, vuol dire che per 6 anni i socialisti non avranno alcun rappresentante nei consigli regionali di queste 3 macroregioni. Ti ringrazio, grazie a Marco Musanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, per questo aggiornamento. Veniamo alle vicende italiane, iniziando dal Giubileo che si apre domani tra grandi misure di sicurezza, e quindi parliamo in qualche modo anche di terrorismo e di allarme terrorismo. Ci colleghiamo con Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Dunque ci siamo, ormai il conto alla rovescia è alle battute finali, perché alle 9.30 di domani mattina inizia questa cerimonia nel corso della quale Papa Francesco aprirà la Porta Santa, inizierà quindi il Giubileo, e 2 ore prima in Piazza San Pietro inizierà invece l'ingresso dei fedeli, dei molti fedeli che si saranno registrati per assistere a questo evento. I controlli saranno ovviamente molto accurati e tutti quelli che entreranno nella piazza dovranno passare attraverso i metal detector. Secondo la prefettura, le ultime stime le ha confermate stamattina il prefetto Gabrielli, sono attesi fra i 50 e i 100.000 pellegrini, 50.000 quelli che entreranno nella piazza. Tutta la zona sarà naturalmente blindata per il timore, lo dicevi, di attacchi terroristici. Per garantire la sicurezza nel corso di tutto il Giubileo, a Roma, lo ricordo, sono arrivati 2.200 militari e altri 1.000 agenti di polizia che si aggiungono ai circa 24.000 uomini delle forze dell'ordine che sono normalmente presenti nella capitale. Sui cieli di Roma domani sarà istituita una no-fly zone, lo spazio aereo sarà chiuso anche agli ultraleggeri e ai droni, sarà poi vietato il trasporto di carburanti, mentre già da ieri lo è quello di armi, di munizioni e materiale esplosivo, è vietato anche l'uso di fuochi d'artificio e persino la realizzazione di riprese cinematografiche che prevedono l'impiego di armi di scena o di uniformi. Tornando invece alla cerimonia di domani, sono oltre 200 le telecamere di sicurezza attive nella zona attorno a San Pietro, un'area che questa sera, dopo le ultime operazioni di bonifica, sarà chiusa, sarà in pratica sigillata fino a domani mattina. Simone. E grazie Andrea Viali per questo aggiornamento di Giubileo. Torneremo a parlare più avanti per un racconto più preciso di come funzionerà la giornata di domani e soprattutto la mattinata, soprattutto questa apertura del Giubileo. E a proposito di sicurezza, blindata è anche questa sera la prima della Scala. La seguirà per noi, come da tradizione, la nostra Marta Cagnola. Marta, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Simone, intanto questa mattina ha parlato già il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo preso tutte le misure necessarie e indispensabili per evitare qualsiasi pericolo per la nostra comunità, ha parlato in questi termini Pisapia. Le misure in atto, 600-700 militari in città, reparti, tiratori scelti intorno a Piazza della Scala, telecamere e metal detector per la prima volta per chi parteciperà all'evento. Notizia della strada mattinata, intanto ci sarà probabilmente questa sera la prima anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, la sua presenza era stata caldeggiata dal sovrintendente Alexander Pereira, e per ora è tutto. Grazie Marta Cagnola. E a proposito di terrorismo, questa mattina c'è stato un arresto a Bari. A Bari era diventato il primo punto di riferimento per chi arrivava in Italia. Lui procurava documenti falsi, soldi e alloggi a pakistani, egiziani, turchi che poi proseguivano il viaggio. Lui, che era a pieno titolo inserito in una delle più pericolose organizzazioni terroristiche, quella di Ansar al-Islam, è stato nuovamente arrestato. Mohammad Majahid, iracheno di 45 anni, già condannato a 10 anni, poi trasferito al CIE e quindi, dopo un ricorso, ancora in attesa dell'espulsione. Nel frattempo la sua kebaberia era diventata per molti la prima base di inserimento in una rete europea ben più ampia, che porta da una parte fino al Mullah Krekar, detenuto in Norvegia, capo di quella stessa cellula jihadista con piani di attentati all'estero già individuata dalla Procura di Roma, ma dall'altra la rete di Majahid conduce fino a Molenbeek, il quartiere a maggioranza araba di Bruxelles, e fino alle stragi di Parigi. È scritto in un quaderno con la copertina rossa il nome di Bassam Ayaci, l'imam belga assolto a Bari, nelle cui conversazioni già tornava piani di attentati in Francia. Nelle perquisizioni a Majahid invece sono state trovate anche cartoline inneggianti al jihad. Chiedo una vita felice, la morte dei martiri e la vittoria sui nemici, si legge, e in un'altra si parla di ISIS. Ma la data, giugno 2011, è precedente a ogni conoscenza, almeno pubblica, dello Stato islamico. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E di terrorismo ha parlato Obama in un discorso alla nazione. We cannot turn against one another by letting this fight be defined is a war between America and Islam. Non ci metteremo gli uni contro gli altri, questa non è una guerra dell'America contro l'Islam, ha detto il presidente nel terzo discorso solenne dallo studio ovale. Ci sono milioni di musulmani americani e molti indossano la divisa, ha aggiunto. Il terrorismo è una minaccia reale, ma vinceremo senza farci trascinare in una guerra lunga e costosa in Iraq e in Siria, come vuole l'ISIS. Del discorso di Obama ci tornerà a parlare come sempre Mario Platero nel suo America 24. Si registra intanto un nuovo fronte di tensione tra Russia e Turchia dopo che Mosca ha inviato una nave militare nel Bosforo. Cresce ancora la tensione tra Russia e Turchia. A scatenare la rabbia di Ankara questa volta è stato il passaggio di una nave da guerra russa nelle acque del Bosforo, non il transito in sé, per la verità che in tempo di pace la Turchia consente, come prevede la convenzione di Montreux. Ma a fare infuriare Ankara sono state invece le immagini di un soldato con in spalla un lanciamissili terra-aria apparentemente pronto all'uso sulla Cesar Kunikov proprio mentre la nave passava attraverso il Bosforo. Immagini mostrate da alcuni canali televisivi del transito della nave che sarebbe avvenuto ieri mattina e che hanno suscitato la reazione del ministro degli esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu, pronto a convocare l'ambasciatore russo ad Ankara. Çavuşoğlu ha avvertito Mosca di mostrarsi più matura e di porre fine alle provocazioni, dicendo che la Turchia consente il passaggio di tutte le navi come prevede il diritto internazionale, ma che in futuro non esiterà a dare la risposta necessaria a situazioni giudicate come una minaccia. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. E noi risiamo all'estero, perché se in apertura vi abbiamo parlato delle elezioni in Francia, ci sono state altre elezioni importanti. Ieri sono quelle in Venezuela, dove finisce dopo 16 anni sostanzialmente il chavismo. L'opposizione ha vinto le elezioni legislative conquistando 99 dei 160 seggi dell'Assemblea Nazionale. Saluto Roberto Darin del Sole 24 Ore che mi ha raggiunto in studio. Roberto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Esperto di questioni che riguardano l'America Latina. Allora Roberto, che cosa rappresenta questo cambiamento? Beh, questo è una svolta importante, perché dopo 16 anni per la prima volta si afferma alle elezioni una forza politica differente. È di centrodestra, ma in verità le nuance diciamo liberiste che il centrodestra aveva fino ad alcuni anni fa oggi non ci sono più. Quindi è un centrodestra che si afferma e che recupera parte dei valori, paradossalmente, del chavismo, che sono quelli di inclusione di quella massa di diseredati che per 16 anni ha dato stabilmente il voto a Chavez e poi all'attuale presidente Maduro. La sconfitta di Maduro fondamentalmente, Roberto, ha molto a che fare con uno stato dell'economia che è letteralmente disastroso. Sì, è uno stato effettivamente disastroso, con un'economia bloccata, un'inflazione all'80% annuo, tutto imputabile, quantomeno in gran parte, a il crollo del prezzo del petrolio, che naturalmente per il Venezuela rappresenta un ingresso in valuta estera di straordinaria importanza. Ora sarà tutta da riscrivere la pagina della politica economica venezuelana, e l'opposizione di centrodestra si appresta a far valere questo risultato elettorale. Naturalmente il presidente rimane in carica, perché comunque queste erano elezioni legislative e non elezioni presidenziali. E grazie anche a Roberto Darin del Sole 24 Ore per questo aggiornamento. Proseguono in Parlamento i lavori sulla manovra economica. Torniamo dunque alle cose italiane. In queste ore tocca la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, mentre si attende il provvedimento o l'emendamento alla manovra con il quale l'esecutivo intende tutelare parzialmente i risparmiatori rimasti coinvolti dal provvedimento con il quale quattro banche, Cariferrara, Banca Marche, Popolare dell'Etruria e Carichieti, sono state salvate dal governo. Un fondo di solidarietà da 100 milioni di euro, un credito d'imposta sull'IRPEF. Palazzo Chigi apre all'idea di introdurre nella legge di stabilità una soluzione al salvabanche. Il decreto con cui il governo ha dato una nuova vita a Popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cassa di Ferrara, ma ha azzerato i risparmi di 130.000 azionisti e 15.000 obbligazionisti. L'intervento deve riguardare i più deboli, con confini e limiti, evitando il rischio di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea per aiuti di Stato, annunciato il viceministro dell'economia economia Morando nel giorno delle proteste nella capitale, a manifestare i figli e i nipoti di chi ha perso i risparmi di una vita per omessa informazione del rischio da parte delle banche, denunciano. Una parola definitiva a livello politico arriverà solo nei prossimi giorni e saranno i relatori a farsi carico di mettere insieme una sintesi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questo torneremo a parlare più avanti. Adesso vi parliamo di un lutto nel mondo della moda, perché è morta Mariuccia Mandelli, in arte Crizia. Il nome d'arte, Crizia, non fu scelto a caso. Mariuccia Mandelli se lo diede dopo aver letto l'omonimo dialogo di Platone, una delle ultime opere del filosofo greco, che si conclude con il mito di Atlantide. In quasi 60 anni di carriera è Crizia, scomparsa ieri sera a Milano, essere diventata un mito. Il debutto risale al 1957 a una fiera di Torino, il Samia, e nei decenni successivi Crizia segnò la storia della moda italiana. Ha precorso i tempi per innumerevoli motivi, fu la prima a rivoluzionare l'uso della maglia, preferendo negli austeri anni 60 golf tricottati ai twin set che facevano bon ton. Fu lei nel 93, di ritorno da un viaggio in Cina, a spiegare ai suoi colleghi italiani che sarebbe stata quella la nuova frontiera per i marchi del Made in Italy. Ci saranno presto 260 milioni di ricchi, disse allora. Crizia intuì inoltre prestissimo il potenziale delle licenze. Arrivarono profumi, borse, occhiali, cravatte, orologi, piastrelle e un'intera linea per la casa. Nel 2014 la stilista cedette il suo marchio, si disse per 35 milioni di euro, all'imprenditrice cinese Zhu Chongyun, che guida un gruppo, Maris Frolg, da 500 milioni di fatturato. Il piano di rilancio è ambizioso e prevede l'apertura di boutique in Cina e all'estero. Crizia approvava e approverebbe, e Zhu Chongyun, dal canto suo, aveva detto fin dall'inizio che il successo della seconda vita del brand sarebbe stato possibile solo grazie alla presenza, anche solo nel ricordo, dell'immaginario della sua fondatrice. Giulia Crivelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi torneremo sulle elezioni francese, dedicheremo un approfondimento alla vicenda delle quattro banche, come vi abbiamo raccontato, con qualche dettaglio in più, e poi vi racconteremo che cosa è previsto nella giornata di domani, non solo da un punto di vista della sicurezza, ma anche da un punto di vista religioso, che cosa è previsto per il giubileo di domani e come si prevede che si svolgerà la mattinata tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano ancora la Francia, col Front National che diventa primo partito nelle elezioni regionali, la Francia letteralmente spaccata in tre dopo questo voto. Il test sicurezza per l'Italia, questa sera la prima della Scala, domani l'apertura del giubileo, c'è stato un arresto a Bari per connessioni col terrorismo. Dopo il decreto per salvare quattro banche, il governo pensa a un fondo per tutelare i risparmiatori, partono le prime azioni penali. Morta a 90 anni Mariuccia Mandelli, in arte Crizia, grande stilista. Antonio Villafranca, responsabile area Europa per l'ISPI. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Cosa rappresentano queste elezioni francesi, oltre che, come si diceva poco fa con Marco Musanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, una tendenza consolidata alla crescita del Front National? Ma in effetti leggerlo come un voto di protesta, questo di Parigi, sarebbe assolutamente sbagliato. Come diceva prima lei, in realtà è sotto traccia, in realtà il fronte nazionale ha ormai ha fatto il pieno di voti, già a partire dal 2002, quando il fondatore Le Pen era riuscito addirittura ad arrivare al secondo turno, ma anche più recentemente con le parlamentari. Quindi c'è una parte di protesta, ma c'è uno spostamento proprio dell'elettorato francese. Per fare un esempio, nella regione Picardie, dove la Marine Le Pen ha preso il 40%, la Le Pen riesce a inviare un messaggio molto preciso, un messaggio politico di aumento del welfare in una regione povera in cui il 18% della popolazione è sotto la soglia di povertà, mentre la nipote Marion, parlando invece alla Costa Azzurra, parlando ad una regione ricca, riesce a dare un messaggio invece di maggiore libertà dei mercati e sicurezza, che ovviamente è il tema centrale, soprattutto in una regione che quasi sempre, insomma, è più orientata alla destra. Una tendenza consolidata, Villa Franca, visto che lei si occupa di questioni europee, forse anche questo può essere un punto interessante. Nei nostri titoli abbiamo parlato di una Francia spaccata in tre. In realtà questa è una tendenza che si sta verificando in una serie di paesi europei, non solamente la Francia, ma penso per esempio al nostro stesso paese, all'Italia, tanto per fare un esempio, o anche alla Spagna. Quello sicuramente, anche se il caso francese è, diciamo, ancora più peculiare, perché in realtà la Le Pen riesce a fare, diciamo, in Francia quello che in Italia fanno un po' il Movimento 5 Stelle e la Lega, posizioni, diciamo, fortemente euroscettiche, ma la Le Pen, diciamo, in maniera molto furba, ad esempio negli ultimi mesi, parla sempre meno dell'uscita dall'euro, pur rimanendo fortemente euroscettica, ma anche posizioni diciamo populiste, ecco, che quindi parlano a quelle che alla pancia a volte anche della gente, parlano ovviamente dei problemi di quelli che si sentono emarginati dai processi di globalizzazione, da un'economia in cui non riescono a ritrovare il posto del lavoro o perdono il proprio posto di lavoro, e quindi è un messaggio che sicuramente colpisce, va nel segno e ha un ritorno elettorale molto importante, però è diverso. La Le Pen riesce ad unire queste anime e riesce veramente ad attrarre un voto trasversale che va dagli ex comunisti fino all'estrema destra. In Italia la situazione è molto più segmentata, molto più frammentata. Nel caso della Spagna, vedremo, adesso ci saranno le elezioni, in realtà ecco, la Spagna sembra un po' diversa, anche lì c'è una più alta frammentazione come in Italia, ma la situazione economica sembra stia migliorando anche di più, e quindi può darsi che effettivamente poi non ci sia un rimbalzamento nelle prossime elezioni rispetto invece a quello che potrebbe accadere nel 2017, ad esempio nella stessa Francia. La ringrazio, grazie ad Antonio Villafranca, responsabile area Europa per l'ISPI. Adesso torniamo ad occuparci di banche, delle banche che sono state salvate dal governo e di che cosa si prospetta anche per gli obbligazionisti. In caso di liquidazione o fallimento, chi detiene bond subordinati sarà rimborsato dopo gli altri creditori. Per questo potrebbe incorrere nella perdita anche totale del capitale investito. Così è scritto nei prospetti delle obbligazioni subordinate delle quattro banche salvate dal governo. La Consob comunque indaga per capire se i titoli delle banche fallite siano stati venduti a clienti in grado di comprenderne i rischi. Nel caso di mio padre, cliente di Banca Etruria da 40 anni, si tratta di una circonvenzione di incapace finanziario, ci racconta Francesca, che si è rivolta a un avvocato per denunciare direttore di banca e promotore. Mio padre aveva quel famoso MiFID, quindi il profilo di rischio basso, era un cliente della banca, nessuno gli ha detto niente. Lui poi andava in continuazione, come fanno tutti gli anziani, a chiedere se era tutto a posto, e dicevano: guarda, non ti preoccupare, stai prendendo questa cedola semestrale di 740 euro, ma nel 2023 il tuo capitale è assicurato. Un mese fa sono andata io come figlia, stai tranquilla, è tutto a posto. Nessuno aveva detto a mio padre a quello che andava incontro, gli unici risparmi di tutta una vita. E ora a preoccuparsi sono i clienti delle BCC, su 368 ce ne sono 6 commissariate. Niente panico, tuteliamo i nostri investitori, ci spiega Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, la federazione delle banche di credito cooperativo. Noi abbiamo un fondo di garanzia dei depositanti che è obbligatorio, un fondo di garanzia degli obbligazionisti che è volontario, che in questo momento protegge quasi 30 miliardi di euro in obbligazioni emesse dalle nostre banche, e poi abbiamo un terzo fondo, anch'esso volontario, il Fondo di Garanzia Istituzionale, che ci consente di fare in questa fase di incertezza nata da 9 mesi con le autorità di Bruxelles, di portare a termine quelle operazioni che noi definiamo di autoriparazione, senza scomodare nessuno, a favore di obbligazionisti, sottoscrittori di prestiti subordinati che sarebbero rimasti insoddisfatti. Altra questione poi la riforma delle BCC in arrivo, come previsto da mesi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una pausa, ci risentiamo tra un attimo con i mercati e poi andiamo a parlare di Giubileo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, a partire dalla Francia, il Front Nazionale il primo partito, Le Pen al 28%, i popolari al 27%, i socialisti al 23,3% dopo le elezioni regionali. Test sicurezza per l'Italia, questa sera la prima della scala, anche cecchini sui tetti delle piazze, domani l'apertura del Giubileo, proibito anche l'uso e il trasporto di armi di scena per chi lavora in cinema, TV e teatro. Il ministro Gentiloni annuncia riunione della coalizione anti-ISIS a Roma a metà gennaio. Il califato si batte con una soluzione politica, dice l'inviato speciale per la Siria De Mistura. È morta a 90 anni Mariuccia Mandelli, in arte Crizia, fondatrice dell'omonima casa di moda. Poco meno di 2 anni fa aveva venduto ad un gruppo cinese la borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. E adesso torniamo a parlare di Giubileo. Abbiamo parlato molto di quelle che sono le misure di sicurezza, ne abbiamo parlato nella prima parte e anche nei nostri titoli. Adesso vogliamo andare un po' più sul senso di questo Giubileo, visto che siamo alla vigilia e insomma non è detto che tutti ne siano perfettamente informati. Dunque ci colleghiamo con la nostra inviata a Roma, Katia Caramelli, che seguirà tra l'altro la giornata di domani. Katia, eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, spiegaci innanzitutto che cosa rappresenta questo Giubileo e qual è la particolarità di questo Giubileo. Allora sì, lo dice il nome stesso, è un anno straordinario perché voluto da Papa Francesco, non a 25 anni dal precedente Giubileo, e cioè ricorderete il grande Giubileo del 2000, ma appunto in questo anno particolare che Papa Francesco ha voluto dedicare alla misericordia. E questa è la prima particolarità, perché è la prima volta che un Giubileo ha un filo conduttore, appunto la misericordia, un anno che si aprirà domani ufficialmente e terminerà poi il 20 novembre. Giubileo, che cos'è il Giubileo? È un anno in cui i fedeli possono ottenere l'indulgenza plenaria, ossia il perdono dei loro peccati e anche la cancellazione, la remissione di quella che è la pena per questi peccati. Dicevamo appunto che questo Giubileo appunto ha questa particolarità, che è quella del filo conduttore della misericordia, ma ne ha tante, Simone, di particolarità. Sì. Innanzitutto non sarà necessario recarsi a Roma per varcare la Porta Santa come in occasione degli altri giubilei, e questo perché qualche giorno dopo, il 13 dicembre, si apriranno porte sante in tutto il mondo, quindi ognuno in particolari chiese, nella cattedrale, in santuari specifici potrà varcare la Porta Santa. E un'altra particolarità di questo Giubileo è che lo stesso Papa, un venerdì al mese per tutto l'anno giubilare, si recherà invece in un luogo simbolico per varcare una porta santa, e il primo appuntamento è il 18 dicembre, quando aprirà la porta santa dell'ostello della Caritas qui a Roma. E infine, per citare un'altra particolarità, ma ce ne sono davvero tante in questo Giubileo, tutti i sacerdoti durante quest'anno giubilare potranno perdonare il peccato dell'aborto, che come sappiamo invece è un peccato che spetta al vescovo perdonare. Invece in quest'anno giubilare potranno farlo tutti i sacerdoti. Katia, brevemente, come si svolgerà la mattinata di domani, che tra l'altro tu insieme al nostro Vincenzo Miglietta ci racconterete in uno speciale in onda dalle 17 alle 18:30, come funzionerà? Sì, esattamente, i varchi per i pellegrini si apriranno molto presto, a partire dalle 6:30, e poi loro, terminata la cerimonia, potranno subito mettersi in coda lungo via della Conciliazione per passare la Porta Santa. Quanto al Papa invece, incontrerà brevemente le varie delegazioni giunte a Roma. Ricordiamo che per l'Italia ci sarà il capo dello Stato Mattarella, ma anche il premier Renzi. Dopo questo incontro, alle 9:30 comincerà la celebrazione vera e propria, che sarà introdotta dalla lettura di alcuni passi del Concilio Vaticano II. E questo perché? Perché siamo nel 50° anniversario del termine dei lavori del Concilio. Poi il Papa chiederà, sarà lui a chiedere l'apertura della Porta Santa, e naturalmente la attraverserà per primo, seguito poi dai cardinali, dai vescovi, dai sacerdoti e via dicendo. In processione si recheranno alla tomba di San Pietro, e qui terminerà la cerimonia molto sobria, molto semplice, di apertura del Giubileo, con poi il tradizionale Angelus, essendo domani, lo ricordiamo, un giorno comunque importante di festa, quello dell'Immacolata, che vedrà infatti poi il Papa impegnato nel pomeriggio anche su un altro fronte, ossia il tradizionale omaggio alla statua della Madonna in Piazza di Spagna. Allora, Katia, io ti ringrazio. Come vi dicevo, ci sarà un nostro speciale dedicato al giubileo domani e poi la nostra Katia Caramelli la sentiremo anche in diretta domani in Effetto Giorno, perché giornata festiva, ma noi ci saremo anche per raccontarvi questa giornata di apertura del giubileo. Adesso ci fermiamo, il lunedì, come sapete, una puntata un po' più breve. C'è America 24, il nostro Mario Platero che ci parla del discorso di Obama e di terrorismo. Ci ritroviamo subito dopo per i saluti finali.